Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, ultima puntata della settimana di Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, via libera del governo agli incentivi, già i nostri GR l'hanno annunciato, avremo uno spazio ampio in apertura, incentivi da 300 milioni di euro più 120 milioni da quello che si è capito di sgravi fiscali. E attenzione, non sono tantissimi, lo sappiamo. Però, insomma, per esempio questa volta non c'è l'auto, dopo tutta la, diciamo, dialettica tra Fiat e il governo, quando la Fiat disse appunto noi andiamo avanti anche senza incentivi, per cui sono 300 milioni per alcuni settori specifici, l'elettronica da consumo, l'elettrotecnica, lavastoviglie, lavapiatti, cappe, e poi il settore dell'arredo, e poi anche il settore delle costruzioni con il piano casa, ma anche alcuni sgravi fiscali e sconti sulle gru. Per i movimenti, macchine, movimento, immagino che non riguardino un privato cittadino, non penso che nessuno voglia comprarsi una gru, ma riguardano chiaramente il settore, e poi un insieme di altri, le due ruote, cicli e motocicli coinvolte. Non è una cifra imponente, ma voglio dire, come dicono i diretti interessati, cioè i presidenti delle varie categorie coinvolte, è comunque un segnale, meglio di niente, che con questi chiari di luna tutto si prende. Ancora cercheremo di far capire come funzionano questi incentivi, fermo restando, già ve lo dico, che domani su Sole 24 Ore vi sarà proprio una guida, il testo della norma e poi una guida anche esplicativa, e lunedì se ne occuperà Deborah Rosciani con Selva Danaio da mezzogiorno in poi da questi microfoni. Poi la borsa, meno 0,4%, poco mosse tutte le borse europee, meno 0,4% anche Parigi, meno 0,6% Francoforte, più 0,1 Londra, meno 0,4 invece l'America. L'euro ritraccia leggermente a 1,3520. Tra i titoli segnaliamo bene Unipol più 2,40, Buzzi Unicem più 2,1, Saipem più 1,5, Fondiaria più 1, Bulgari più 0,80 come Atlantia. Chi va male? Intesa San Paolo, oggi è conference call sui conti, abbiamo anche un passaggio dell'intervento di Corrado Passera, meno 2% Intesa, Impregilo meno 1,80, Ansaldo meno 1,5, Exor meno 1,40, Eni meno 1% come Geox, lo 0,80 Autogrill, lo 0,70 Mondadori, lo 0,60 lo perde Mediobanca e anche Unicredito, mezzo punto percentuale il calo di Lottomatic e del Monte dei Paschi. Poi parleremo del rapporto di nuovo banche d'affari con la crisi attuale. Avremo infatti in collegamento Jeremy Rifkin, che è uno dei politologi, sociologi, futurologi, chiamatelo come volete, autore di moltissimi libri famosi anche in questo paese, ne ha scritto uno e lo sta presentando in Italia, è molto critico sull'atteggiamento dell'amministrazione Obama verso Wall Street, descrive una Casa Bianca sotto scacco, imbrigliata, quasi ostaggio degli dei dell'Olimpo, come venivano chiamati, ossia i grandi finanzieri di Wall Street. E di questo parleremo con lui, perché è interessante capire come mai, come si dice in America, Wall Street stia tenendo sotto scacco Main Street, cioè la gente comune. Lo faremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms. Le altre notizie in breve. Petrolio, come sempre, partiamo dal petrolio, poco mosso a $82, fisso lì il greggio, mentre arriva una notizia importante sul fronte internazionale dall'India. L'India è alzata, è la prima volta che lo fa dal 2008, ha alzato i tassi di interesse, l'ha fatto la Banca Centrale Indiana portandoli dal 4,75% al 5%, un segnale che l'economia indiana corre così tanto che bisogna alzare il costo del denaro, che è quello che probabilmente dovrebbe capitare anche in Cina. Ancora c'è una dichiarazione del presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet, che ha detto che occorre ricollegare la finanza all'economia reale. Siamo d'accordo, ci spiegasse anche come. E poi il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi ha detto in un'intervista a Handelsblatt, un quotidiano tedesco, ha detto: la mia opinione è identica a quella del vostro ministro delle finanze Wolfgang Schäuble, occorre mantenere l'euro, abbiamo un porto sicuro di stabilità grazie alla moneta unica. E poi il Financial Times, che oggi ci ha un po' sorpreso, infatti stiamo anche pensando di iniziare una rubrica di graffi sulle cose che ci lasciano un po' perplessi. Perché? Perché il Financial Times corre in soccorso, in aiuto dei vincitori, come diceva Flaiano, cioè si schiera palesemente contro il Tribunale di Milano nella vicenda che ha visto portato a giudizio quattro banche per il modo in cui hanno venduto, d'accordo secondo l'accusa con alcuni funzionari del Comune, prodotti derivati che hanno comportato una perdita per il Comune di Milano di 150 milioni, è il primo caso di processo per aver venduto dei prodotti derivati agli enti locali. Insomma, il Financial Times incredibilmente dice: ma insomma, UBS, Deutsche Bank, JP Morgan, Depfa Bank, non c'è assolutamente nulla di strano in quello che hanno fatto nel vendere derivati al Comune di Milano, visto che la stessa pratica viene usata dalle amministrazioni di tutte le città europee e soprattutto le banche straniere sono una facile preda su cui avventarsi. Le banche straniere come Deutsche Bank, UBS e JP Morgan siano una facile preda su cui avventarsi, con il massimo rispetto, il Financial Times lo vada a raccontare a qualcun altro, anche perché poi continua: l'intera vicenda ha connotazioni politiche, visto che è esplosa l'inchiesta sui derivati venduti al Comune di Milano, tenuta in forno per quasi due anni, scoppia alla vigilia delle elezioni regionali. Siamo di nuovo all'idea della magistratura che si muove, anche il Financial Times posa l'idea della magistratura che si muove sulla base delle elezioni regionali. Non si capisce onestamente chi verrebbe avvantaggiato da questa inchiesta che pone sul banco degli imputati UBS, Deutsche Bank, JP Morgan e Depfa Bank, che non mi ricordo essere candidati in lista alle regionali italiane. Evidentemente anche Financial Times è sensibile ai grandi gruppi bancari mondiali, mettiamola così. Andiamo avanti. Intesa San Paolo, i dati di oggi: 2 miliardi 800 milioni, il dividendo 8 centesimi per ogni azione ordinaria. 2 miliardi 800 milioni è il dato sull'utile, che è in crescita del 9,9% in gruppo Intesa rispetto all'anno prima. E anche 2010 è atteso in crescita per Intesa, un risultato netto si attende superiore a quello del 2009. A chi già ci chiede al 349-238-6666 di commentare la reazione della borsa, meno 2,4 il titolo, chiedo un po' di pazienza a mercato chiuso. Ancora la vicina Generali. Insomma, oggi Vincent Bolloré, che è un riferimento non solo nella finanza francese ma anche appunto nella vicenda Generali e Mediobanca, entrando a Piazzetta Cuccia, dove si svolgeva il comitato esecutivo di Mediobanca, ha detto: Antoine Bernheim è un'ottima persona, ama l'Italia e le Generali ed è l'attuale presidente, dunque non mi si può chiedere di pensare a qualcun altro per le Generali, è uno sforzo intellettuale troppo duro per me. E poi ha continuato: i conti delle Generali diffusi ieri dimostrano che l'attuale consiglio, quindi gli amministratori delegati e il presidente, ha saputo superare la crisi in maniera formidabile. Vedremo la lettura che danno domani i giornali, un Vincent Bolloré che per ora fa sponda a Antoine Bernheim, possono essere anche dichiarazioni, diciamo, di prammatica. Noi andiamo avanti. Per quello che riguarda l'Alitalia, numerose polemiche sulla perdita. L'Alitalia dice la perdita è quella che è attesa, sono 326 milioni di euro persi nel 2009. Coerenti con l'obiettivo di pareggio nel 2011, fanno notare dall'Alitalia, i critici dicono che comunque si è sempre su una perdita di quasi un milione di euro al giorno, un po' di meno, scesa obiettivamente rispetto ai quasi 2 milioni che perdeva prima della cessione. Ne parleremo di Alitalia, anche perché appunto lì si rischia sempre di scivolare sulla parte politica. Ancora ordinativi all'industria: a gennaio meno 2,8% sull'anno prima, però il dato è buono nel mese su mese, per fortuna più 1,1% a gennaio rispetto a dicembre gli ordinativi alle imprese. Allora partiamo subito con le imprese, col via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che finanzia, mancava appunto i finanziamenti, i soldi, il fondo incentivi allo sviluppo economico a sostegno dei settori in crisi, così si chiama. Ripeto, domani sul Sole 24 Ore la guida, il testo della legge, del decreto e poi la guida anche a interpretarlo. Come dicevamo, nel complesso sono 420 milioni di euro, 300 milioni di fondo più 120 di sgravi fiscali, sono circa 85 milioni di euro per le abitazioni ad alta efficienza energetica, quindi quando si va a ristrutturare in questo modo, 58 milioni per l'acquisto dei mobili della cucina, 50 milioni per gli elettrodomestici, 35 milioni per le gru dell'edilizia, 18 milioni per i trattori, 12 milioni per gli eco scooter, 10 milioni per i motori della nautica, 13 milioni per i rimorchi, 10 milioni per i motori ad alta efficienza energetica. Il presidente del Consiglio Berlusconi dice: siamo consapevoli che la crisi continua ed è globale, ma siamo realisti e diciamo il nostro paese la sente meno di altri paesi europei e ne stiamo uscendo non con estrema rapidità ma in maniera certa. E poi il passaggio sugli incentivi per quello che riguarda il piano, come si integrino con il piano casa. Sentiamo questo passaggio in conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Abbiamo, anche dopo un attento studio della legislazione europea, con la visione e la riflessione su tutto ciò che fanno gli altri paesi europei, abbiamo inserito questo articolo che dice che ci sono degli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, quindi che possono essere eseguiti senza che si debbano svolgere delle pratiche presso i comuni, e sono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria nelle case e gli interventi anche di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio e che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non comportino incremento di parametri urbanistici. Così Presidente del Consiglio Berlusconi. Poi per quello che riguarda la copertura, perché questo era il vero oggetto del contendere, sentiamo anche il Ministro dell'Economia Giulio Tremonti che illustrando la parte fiscale del decreto incentivi ha detto appunto a parziale copertura del provvedimento stop all'uso dei crediti IVA come se fossero un bancomat, cioè da lì arriverà parte della copertura del decreto. La competenza delle finanze è stata solo quella di fornire una parte dei fondi da destinare. Voglio solo dire che i fondi usati per finanziare gli incentivi sono fondi che vengono raccolti in applicazione di direttive e di politiche europee nel contrasto ai paradisi fiscali, anche contrasto sulle frodi IVA, sulle frodi operate con triangolazioni, caroselli, l'utilizzo dell'IVA, e l'abbiamo visto purtroppo da molte notizie anche recenti, l'utilizzo dell'IVA è un po' come un bancomat disponibile da parte di imprese capaci di inventarsi procedure non regolari. In sostanza, chi adesso si prende l'IVA o si scarica comunque dei costi con fatture fatte verso paesi che sono nelle cosiddette blacklist è come se si porta a casa quella fattura che si porta a casa la verifica fiscale. E quindi da lì, da questo contrasto, arriveranno parte delle risorse. Tra l'altro, pochi minuti fa è uscita una notizia che vi leggo: il fisco marcherà stretti i contribuenti che fanno affari con San Marino. È un po' quanto ha appena detto il ministro Tremonti. I soggetti con partita IVA che hanno scambi con la Repubblica del Titano entrano nel mirino del fisco. Attenzione quindi, se fate affari con San Marino dovranno comunicare al fisco i dati dell'operazione con cadenza mensile. Solo chi ha operazioni per un volume d'affari inferiore a 50.000 euro potrà inviare telematicamente i dati ogni 3 mesi. Volete sapere quando il decreto sarà attuativo? Beh, insomma, partiranno il 6 aprile e i decreti attuativi, ha detto il ministro Scajola, arriveranno entro domani. E poi Scajola ha anche aggiunto: per le risorse non sono stati toccati i fondi pubblici. Il decreto attuativo sarà firmato entro domani e avrà la partenza il 6 di aprile, che è la data che abbiamo scelto, il giorno dopo Pasquetta, per avere il tempo in questi 10 giorni di mirare tutta la organizzazione che si baserà poi a livello periferico sul sistema delle poste. Ci pare quindi che l'attenzione del governo verso la politica industriale sia particolarmente attenta, pur nelle difficoltà della situazione economica nella quale viviamo e della quale vi ha parlato il Ministro dell'Economia, che ci ha permesso di indicare le risorse senza toccare i conti pubblici. E appunto, risorse totali per 420 milioni di euro. Questo è l'intervento in conferenza stampa oggi. Alcuni di voi ci chiedono di risentire e di capire esattamente le critiche che muoveva ieri invece il leader del PD Bersani, che oggi è tornato sullo stesso tema, per cui diciamo, praticamente ha detto le stesse cose che aveva detto ieri. Allora sentiamo il passaggio di ieri in aula. Voi di sostanziale avete fatto una cosa: avete preso soldi agli investimenti delle regioni del sud, li avete messi sugli ammortizzatori sulla cassa integrazione, lasciando scoperte grandissime fasce di precari, lavoratori senza stipendio, tipo Eutelia, rifiutandovi adesso di prolungare e di potenziare questi strumenti. Voi avete fatto 4-5 cose grosse. Uno, il mega condono per gli evasori e esportatori di capitali. Due, un paio o 3 miliardi per Alitalia. Tre, avete incassato 20 miliardi di IVA in meno in 2 anni. 4. Avete aumentato la spesa corrente per beni e servizi della pubblica amministrazione di 12 miliardi in 2 anni. 5. Avete tagliato 8 miliardi alla scuola nei 3 anni. Col risultato, io spero che vi sia arrivata notizia sui banchi del governo, che le famiglie italiane per la scuola dell'obbligo stanno contribuendo agli strumenti didattici, alla carta igienica e alla supplenza degli insegnanti. Quindi netta divergenza nel giudizio tra maggioranza e opposizione, come è normale che sia in qualunque democrazia compiuta, anche a livello europeo. Difficile che manchino i contratti sulle cose fatte. Sulla scuola vedo che alcuni scrivono: abbiamo fatto un'intera puntata, non vogliamo tornare, nessuno vuole diciamo, esagerare le situazioni, se può interessare, voglio dire, chi vi parla oggi ha regalato un risma di foglie all'asilo, perché appunto manca la carta spesso per i disegni dei bambini, ma questi sono dettagli, però insomma... Comunque, gli incentivi, e allora come funzionano ce lo racconta questa scheda. €420 milioni, gestiti attraverso un apposito fondo e recuperati principalmente dalla lotta all'evasione. È questa la dote messa in campo dal governo per gli incentivi, che riguarderanno principalmente edilizia, abitazione e mobilità. Capitolo abitazione. È previsto uno sconto del 20% per le cappe elettriche fino a un massimo di €500. Sconto del 20% anche per l'acquisto di forni elettrici, fornelli e lavastoviglie, ma in questo caso con massimali rispettivamente di €80 e €130. Chi cambia i mobili della cucina potrà invece contare su uno sgravio del 10% per un massimo di €1.000. Per quanto riguarda invece l'edilizia, è stato predisposto un contributo fino a €7.000 per chi compra case a basso impatto energetico. Arrivano inoltre sconti del 20% fino a un massimo di €30.000 per l'acquisto di gru. Sul fronte mobilità si potrà usufruire di un contributo fino a €750 per chi sostituisce un motociclo Euro 0 o Euro 1 con uno Euro 3. Il bonus raddoppia se si sceglie uno scooter elettrico. Un massimo di 1.000 euro è invece a disposizione di chi sostituisce vecchi motori nautici fuori bordo con nuovi motori a basso impatto ambientale. Previsto poi uno sconto del 10% per i trattori, ma solo se il rivenditore ne applica uno analogo. Gli incentivi saranno disponibili dal prossimo 6 aprile e fino all'esaurimento delle risorse stanziate. Chi intende usufruirne deve rivolgersi direttamente al rivenditore chiedendo di poter utilizzare il bonus. Il rivenditore verificherà poi per via telematica la disponibilità di fondi e in caso positivo applicherà lo sconto direttamente sul prezzo d'acquisto. Dal 6 aprile consumatori e negozianti avranno a disposizione un call center gestito da Poste Italiane per ottenere le informazioni necessarie. Allora, questi incentivi non posso, chi scrive, lo dico a chi scrive, rispondere sui temi degli asili della scuola. Torneremo a parlare di questo, e dico che in un paese in cui si pagano le tasse, se le tasse si pagano, i servizi poi devono arrivare. Comunque, restiamo sugli incentivi, perché di questo ci occupiamo. Settore elettrodomestico, due ruote, mobilio arredo, i settori principali e le costruzioni in parte principalmente toccati da questi incentivi. Dopo le informazioni meteo e la pubblicità, ne parliamo con il presidente dell'ANIE, che raggruppa appunto oltre 1.000 imprese del settore elettronico, elettrotecnico, e che hanno un fatturato intorno ai 100 miliardi di euro all'anno, con quasi 40-50 che vanno all'export. Dopo il meteo, 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:34 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, ripeto, non possiamo parlare del resto dei tagli all'istruzione, abbiamo già fatto una puntata con la Fondazione Agnelli, con il rapporto della Fondazione Agnelli sulla scuola. Voglio parlare di incentivi. La scheda vi ha ricordato più o meno come sono distribuiti, ripeto, sono 300 milioni più 120 milioni di sgravi fiscali, i settori che sono coinvolti. Uno dei settori più importanti è sicuramente il settore che noi potremmo chiamare gli elettrodomestici, in realtà è un termine impreciso. Ringrazio allora per averci aggiunto in collegamento il presidente dell'ANIE, che è la Federazione Italiana Imprese Elettroniche e Elettrotecniche, Guido Alberto Guidi. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera a voi. Lei appunto è presidente dell'ANIE, che raggruppa dentro Confindustria le imprese elettrotecniche e elettroniche, 11 associazioni, circa 1.000 imprese del settore, se non ricordo male, con un fatturato di circa 100 miliardi di euro? Sì, diciamo che insomma, siamo circa 1.200 aziende e siamo oltre i 120 miliardi di euro di fatturato. Esatto, 1.200 aziende, sì. Oltre i 120 miliardi di euro di fatturato. Dipende, insomma, da quante ne considera, perché abbiamo molti settori. E per cui di questi 120 miliardi di fatturato, se non ricordo male, quasi 40 vanno all'export, per cui sì, stiamo parlando di un... Noi abbiamo circa il 40-45% di quota all'export. E quindi insomma, un settore importantissimo per la nostra economia. E voi avrete, se ho ben capito, più o meno un terzo di questi 300 milioni, presidente Guidi? Sì, se consideriamo gli elettrodomestici, quindi l'aiuto ai elettrodomestici. E devo rimarcare con soddisfazione che sembra, da quelle, dalle notizie che io ho, che sarà un sistema molto più semplice, più snello rispetto alla precedente incentivazione, che purtroppo non aveva dato grandi frutti essendo collegata alla ristrutturazione della casa. Quindi credo che questa volta dovrebbe dare impulso a questo settore che ha sofferto molto negli ultimi mesi. Quindi rispetto ai precedenti incentivi, le dice, questa volta non essendo legati alla ristrutturazione della casa ma al semplice acquisto, dico io, ci potrebbe essere un'efficacia maggiore rispetto... Sì, io mi aspetto un'efficacia maggiore di questo strumento. E ripeto, la volta scorsa fu praticamente inefficace, non produsse effetti, era troppo farraginoso collegato alla ristrutturazione della casa. Ma io credo di dover mettere in evidenza anche con soddisfazione, ecco, nonostante che la cifra in gioco siano per problemi di bilancio effettivamente di non straordinarie entità, ma abbastanza modeste, e l'incentivazione a settori che non erano mai stati toccati. Parlo proprio di linea di prodotto, come i motori elettrici ad alta efficienza, gli inverter, tanti altri settori che per il nostro mondo rappresentano l'efficienza energetica, quindi porteranno risparmi per le famiglie, perché il consumo sarà molto inferiore, ma un beneficio a tutta la collettività, perché si consumerà meno, ecco, quindi questa è stata un po' la guidelines con cui abbiamo richiesto questo intervento al governo. Ecco, prima di arrivare poi alle conseguenze, lei appunto rappresentando un settore che complessivamente vale 120 miliardi di euro, che dati negativi avete registrato? Perché così facciamo capire anche perché gli incentivi vadano a concentrarsi in alcuni settori che appunto non hanno avuto di fatto nessun beneficio dagli incentivi precedenti. Le nostre imprese, se esaminiamo da ottobre del 2008 fino a settembre 2009, hanno avuto cali di fatturato, di ordinativi e quindi di fatturato, questa seconda dei tempi fisiologici di produzione e di consegna, che sono andati dal 30% per i più fortunati fino al 60%. Dal 30 al 60% di calo? Dal 30 al 60%. Poi le cose da luglio in poi timidamente hanno cominciato a migliorare. Dire che siamo ancora sotto i livelli del 2007 è un eufemismo. Siamo ancora molto lontani dall'uscita della crisi, anche se qualche segno di miglioramento, soprattutto sull'export, lo cominciamo a sentire. Torniamo agli incentivi, diciamo più o meno un terzo di questi 300 milioni. Da quello che abbiamo capito, poi l'applicazione, perché come lei ricordava è molto importante che il meccanismo non sia troppo faraginoso, troppo burocratico, sennò è un disincentivo, non c'è voglia di fare 3-4 passaggi. E poi vedremo i maggiori dettagli, appunto domani c'è la guida su Sole 24 Ore dedicata proprio al sistema degli incentivi, al testo e anche alla spiegazione del testo. Ma dicevo, se abbiamo capito correttamente, qui vi sarà una specie di automatismo, cioè io andrò a comprare una cappa, poniamo un forno elettrico e chiederò al negoziante attraverso un sistema attraverso il terminale di verificare se c'è disponibilità in cassa? Ecco, adesso questo dovrebbe essere così, adesso ripeto, stiamo ancora dando valutazioni su una cosa che conosciamo ancora parzialmente. La cosa importante che mi permetto di sottolineare è che a questi provvedimenti, e purtroppo è inevitabile che sia così, si somma un effetto perverso, che è il blocco dei consumi di questi prodotti dal momento dell'annuncio al momento in cui divengono operativi, quindi il consumatore può veramente usufruirne. Ecco, mi auguro che verrà fatto tutto il possibile per accorciare al massimo questo periodo, perché questo è veramente deleterio, quindi è inevitabile, ma è un periodo in cui si blocca tutto il mercato. Un attimo restiamo su questo punto, Presidente Guidi, perché se ho ben capito lei dice un po' come l'effetto in altri campi che ha la deflazione, cioè quando i prezzi calano si bloccano gli acquisti e i consumi perché uno si aspetta prezzi più bassi, anche in questo caso è inevitabile che nel passaggio tra l'annuncio degli incentivi avvenuto oggi e, se ho ben capito, i decreti attuativi, cioè poi l'operatività e rendere operativi questi soldi, questi incentivi, in quel periodo lì uno rimanda l'acquisto, per cui voi vi troverete con dei segni meno anche pesanti. Certo, anche nel settore dell'automobile, delle due ruote, certo, a motore succede la stessa cosa, quindi diventa importantissimo che intercorra il minor tempo possibile dal momento dell'annuncio al momento in cui il consumatore può veramente usufruire di questo, perché fino a che non ho la possibilità di usufruire non compra. Chiaro. Un'ultima domanda, visto che però lei ricorda, cioè da qui voi vi attendete una boccata d'ossigeno una volta che arriveranno i decreti attuativi. Certo ed è chiaro a tutti che questo sicuramente non fa male, non è tantissimo, come lei diceva, qui c'è un problema di conti pubblici, 100 milioni più o meno per un settore come il vostro sono una boccata d'ossigeno ma nulla di più. Con le cifre che lei ha dato e con i tassi di crescita che vediamo, insomma, se noi facessimo anche, dubito, ma un più 10% nel settore, e dubito fortemente, diciamo un più 5 come dato buono nei prossimi anni, ci metteremo 7-8 anni a tornare ai livelli del 2007. Presidente, cosa si può fare nel frattempo agganciare di più l'export, compiere ristrutturazioni tra le imprese, aggregarle in rete? Credo che gli strumenti per intervenire, per accelerare l'uscita dalla crisi, la prima considerazione è che quello che è successo non è stata una crisi normale, quindi noi che facciamo questo mestiere ci troveremo a lavorare in un mondo sconosciuto, che non conosciamo. Le cose da fare per accelerare la ripresa sono le solite, ma naturalmente si scontrano sempre con i conti del bilancio pubblico. Riduzione delle tasse per le imprese e per le famiglie in modo tale da poter investire di più e consumare di più, e poi gli investimenti pubblici. Io mi permetto di dire gli investimenti pubblici nelle reti, che io dico le reti ferroviarie, ecco, ogni euro investito nelle reti ferroviarie ha un moltiplicatore 10, perché tocca svariatissimi settori, dalle tecnologie fino alle costruzioni civili, di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, produzione e distribuzione, diciamo, inserimento in rete della banda larga, delle reti telematiche, ecco, tutto questo sviluppano e soprattutto consentono alle imprese che hanno investito di poter poi sviluppare tecnologie che possono poi portare anche all'estero. Senza un mercato interno diventa molto difficile investire per poi fare la tentata vendita. Ma lei non ritiene, per concludere, Presidente Guidi, che nonostante gli incentivi, nonostante appunto anche il cercare di far ripartire gli investimenti interni, investimenti pubblici, investimenti produttivi, perché poi il miglioramento della rete infrastrutturale, sia come telematica, sia come binari, serve alla competitività del paese, ma lei non ritiene che nonostante questo ci dovrà essere anche una metamorfosi profonda del tessuto di imprese, le 1200 imprese che lei citava, cioè che non tutti, è brutto dirlo perché poi insomma ci mettiamo nei panni anche degli imprenditori, ma che non tutti potranno uscire nel 2012-2013, vediamo quando si arriverà ai livelli del 2007, da questa crisi così come ci sono entrati? Io credo che gli effetti veri della crisi cominceremo a vederli da adesso in poi. C'è solo un particolare, si sta diventando drammatica la vischiosità all'incasso, cioè le aziende fanno fatica a pagare i fornitori, quindi a catena questo sta creando un problema molto serio, questo in tutti i settori. La seconda cosa è che si stanno presentando oggi in questi periodi le imprese per avere il rinnovo degli affidamenti e naturalmente si presentano con bilanci del 2009 che nella migliore delle ipotesi possiamo definire non entusiasmanti. Se sommiamo a questo poi gli effetti delle norme di Basilea che le banche stanno cominciando inevitabilmente ad applicare e che quindi creano maggiori vincoli anche al sistema bancario, ecco, io credo che questa potrebbe diventare un'emergenza di nuovo. E che cosa vedo, che cos'è che mi fa dire che abbiamo la possibilità di farcela? C'è un sistema di medie imprese, forse non è pure corretto dire medie imprese, perché io ricomprendo dentro aziende da 50 milioni di fatturato fino ai 500-600 milioni, che nel corso degli anni scorsi hanno fatto investimenti in ricerca e sviluppo, entrano a fatturato prodotti nuovi, si sono ristrutturate, si sono multilocalizzate, quindi hanno portato la loro presenza in altri paesi, dove non è solo la ricerca della produzione low cost, ma è anche un modo per essere meno aggrediti poi dai prodotti che provengono dai paesi a low cost, e oggi cominciano a vedere segnali di crescita, ci sono aziende che pensano di crescere, hanno programmi di crescita anche nel 2010. Quante sono sul totale, ecco, quanto incideranno sull'andamento globale della nostra industria, ecco, questo io non sono in grado di dirlo, ma senza dubbio questo segnale lo stanno facendo. Quindi la spina dorsale, la linea del Piave potrebbe essere rappresentata proprio da questo gruppo di medie imprese, quelle che alcuni chiamano i nostri multinazionali tascabili. Sì, ricostruire l'industria italiana, perché di questo si tratta. E questo purtroppo, lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666, non è una bella notizia, ma è inutile raccontarsi le favole, qui soprattutto non l'abbiamo mai fatto, non è una bella notizia per i piccoli, per i piccolissimi che non hanno molto valore aggiunto, che non operano in nicchie o comunque in segmenti molto specifici, che sono sottocapitalizzati, che non hanno innovato in questi anni. Purtroppo, come nella favola di Esopo, della formica e della cicala, ogni tanto l'inverno arriva anche inatteso, e lì chi ha messo fieno in cascina, vale sempre la solita regola, ha maggiori possibilità di superare l'inverno o a nuttata, come diceva De Filippo. Grazie al presidente dell'ANI, Guidoberto Guidi. Grazie a voi, arrivederci. Alcuni di voi ci stanno chiedendo, poi arriviamo al traffico e alla borsa, se dentro gli incentivi ci sono anche i frigoriferi, i freezer. No, da quello che noi abbiamo capito, no, non sono parte degli elettrodomestici per cui è previsto arrivare a un incentivo. Sulla parte tecnica, ripeto, aspettiamo i decreti attuativi, ma dovrebbe funzionare come abbiamo detto, cioè si va dal negoziante, il negoziante con in via telematica col terminale controlla che ci siano ancora fondi a disposizione, e in quel modo cosa fa? Fa lo sconto sull'acquisto. Partiranno dal 6 aprile, adesso la borsa, ma chi dice, ma insomma non parte la borsa, se c'è un tema che è fisso in questo programma è la borsa, è un programma di economia e finanze, adesso parliamo anche di finanza, ossia borsa e Banca Intesa che ha presentato i conti, esistono anche altri temi e altri interessi e altri ascoltatori, il traffico. Allora la borsa, chiusura oggi della settimana, Milano in leggero calo, meno 0,4%, come Francoforte e Parigi, meno 0,5% Francoforte, meno 0,3% Parigi, Londra la migliore più 0,1%, l'America perde adesso lo 0,5% sul Dow Jones e lo 0,6% sullo Standard & Poor's, meno 1% il Nasdaq, euro a quota 1,35%. Di Intesa San Paolo, che tra l'altro è il peggior titolo di quelli a maggiore capitalizzazione, meno 2,4%, parliamo dopo, perché oggi ha diffuso i dati, oggi c'è stata la conferenza con gli analisti, abbiamo anche un passaggio dell'intervento di Corrado Passera, Livia Zancaner, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Unipol, più 3,4%, miglior titolo, e poi bene anche Buzzi Unicem più 2,4%, Saipem più 1,80%, continua ad andare bene Saipem, più 1% Fondiaria, più 1% anche Bulgari, lo 0,80% lo guadagna Atlantia e anche Terna, Italcementi più 0,7% come Luxottica. Allora Unipol, Buzzi e Saipem. Sì, allora Unipol è stato il miglior titolo fin dall'avvio di sedute, ha beneficiato in particolare del buon andamento registrato questa mattina dal settore, che in realtà poi ha chiuso sotto la parità. Il settore è stato trainato in particolare dalle prospettive annunciate dall'inglese Lloyd's, che ha stimato il ritorno all'utile per il 2010. Per quanto riguarda nel dettaglio Unipol, allora le azioni hanno guadagnato il 7,3% dal 15 marzo, quindi si trovano in un trend positivo, e la società darà i conti la prossima settimana, il 25 marzo. Inoltre sono arrivati giudizi positivi di alcuni analisti, tra cui Banca Akros, che ha definito il gruppo il principale player nell'assicurazione auto. Allora, sai che sugli giudizi degli analisti noi siamo sempre scettici, ma comunque, oltre a Unipol, Buzzi Unicem bene nel settore costruzioni, una domanda giustamente pongono gli ascoltatori, hanno ragione, 349-238-6666, c'è stata una ricaduta del decreto sugli incentivi a cui abbiamo dedicato l'apertura del programma sui settori coinvolti, insomma se parliamo di cappe elettronica da consumo penso ad Elica per esempio, che produce cappe per la cucina, vedo un più 5%, ma non è l'unica. Anche le due ruote, per cui prego. Sì, infatti allora nella giornata dell'approvazione quindi del decreto legge sugli incentivi, allora le azioni che ne hanno beneficiato sono state Piaggio, che ha chiuso a più 0,33% contro un avvio di seduta che invece è stato in deciso rialzo. Elic, appunto, come dicevi tu, ha chiuso con un rialzo intorno al 5%. Altri titoli coinvolti sono Indesit, che dopo un avvio positivo ha invece chiuso leggermente sotto la parità, meno 0,17%, Icon, che ha chiuso a più 0,62%, che è attiva nel settore delle navi, e poi IMSI, che l'ha controllata di Piaggio, ha guadagnato lo 0,85%. Eh sì, perché ci sono anche incentivi per il settore nautico, per chi vuole comprare un nuovo motore per la barca, se ho ben visto. E anche qui ci sono, la nostra scheda ricordava diversi tetti. Attenzione, l'incentivo non è totale, ha dei tetti sul tipo di acquisto, ma l'abbiamo ricordato nella scheda, lo trovate sul sito di Inter di Radio 24, potete ascoltare la puntata in podcast, fare tutto quello che volete. Andiamo avanti, Livia Zancaner, questi settori coinvolti dagli incentivi, infatti vediamo appunto i dati di Elica più 5% e anche bene Piaggio. RDB SPA più 14%. Sì, allora la società ha beneficiato di un ritorno di visibilità in quanto ha partecipato alla Star Conference organizzata da Borsa Italiana, che si è tenuta appunto a Palazzo Mezzanotte il 17 e il 18 marzo, e in particolare l'amministratore delegato della società ha fornito buone stime per l'anno con degli ordini che ha annunciato dovrebbero arrivare nei prossimi giorni. Realizzi, ossia vendite quando molto si è guadagnato su due titoli che sono le debuttanti di questa settimana: Poligrafici Printing meno 10%, PMS meno 8,4%, ma insomma avevano corso tantissimo. De'Longhi meno 3,4%, Dada meno 3,5%, Sorin meno 3%. Ancora torniamo ai titoli di maggiore capitalizzazione. Saipem più 1,80, 27,70 euro per azione. Sì, allora bisogna dire che le azioni della società appunto stanno registrando un andamento positivo dal 25 febbraio, sì, giorno da cui hanno messo appunto a segno un rialzo decisivo. Ciò nonostante, oggi il petrolio comunque, nonostante un'apertura positiva, stia poi trattando intorno agli 80 dollari al barile. Inoltre sono arrivate nelle ultime settimane dei giudizi positivi dal mercato, che continuano comunque a premiare il titolo e ad aumentare la visibilità dal punto di vista degli investitori. Allora, dopo il GR, Livia, parleremo di Finmeccanica e Ansaldo, perché è strano oggi il movimento in borsa, visto che c'è una commessa da 100 milioni di euro, ma i titoli perdono, e poi soprattutto dei conti di Intesa San Paolo. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento di borsa e poi passare all'intervista con Jeremy Rifkin su Wall Street, che tiene sotto scacco la Casa Bianca, ma anche questa nuova cultura dell'empatia, come dice Rifkin, che sarà anche uno dei portati dei risultati di questa crisi, dello stravolgimento degli assetti produttivi a livello mondiale, causato anche, ma non solo, da questa crisi finanziaria. Livia Zancaner, dicevamo, Finmeccanica, per concludere con la borsa, non ha risentito né Finmeccanica né la controllata Ansaldo STS di un contratto da 100 milioni di euro che si è aggiudicata appunto attraverso Ansaldo Energia, Selex, DRS Technologies, per realizzare due turbine a gas, ho ben capito, ma insomma da realizzarsi in Finlandia. Il titolo Ansaldo STS, per carità, fa anche altro, per cui perde l'1,7, strano su Finmeccanica. Sì, allora infatti le azioni Finmeccanica hanno chiuso sotto la parità, segnando un calo dello 0,35%, più o meno in linea con l'andamento del paniere principale. Le azioni in realtà hanno perso terreno anche alla vigilia, non risentendo quindi delle notizie che sono emerse negli ultimi giorni. Per quanto riguarda la controllata Ansaldo, invece, secondo gli operatori, che ha perso appunto l'1,7%, secondo gli operatori si è trattato più che altro di una giornata di realizzi. Infatti il titolo ieri ha guadagnato l'1,6% circa, anche grazie alle dichiarazioni degli ultimi giorni dell'amministratore delegato del gruppo durante la Star Conference 2010 di Borsa Italiana. Infatti l'amministratore delegato Sergio De Luca, infatti, detto, ha infatti ribadito più che altro che il gruppo è pronto ad eventuali operazioni di acquisizione qualora si presentasse l'opportunità, e ha ribadito di non voler al momento cambiare la propria politica, sì, di dividendi, che prevede comunque un alto livello di cedola. Allora, questo per quello che riguarda tutti gli altri titoli. Giornata connotata oggi da Intesa San Paolo, sia perché appunto ha diffuso i conti, ma poi c'è stata anche la conference call con gli analisti, sia perché il titolo è il peggiore tra quelle maggiore capitalizzazione, meno 2,4%. Parliamo allora di Intesa San Paolo. Che con un credito del primo gruppo bancario italiano capitalizza 34 miliardi di euro, 11 milioni di clienti in Italia, 34 i paesi in cui è presente, principali azionisti Compagnia San Paolo che è quasi 10%, Crédit Agricole quasi 6, Generali, le Generali hanno il 5%. Così come ce l'ha il 5% la Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo, la Fondazione Caripro la 4,6%. Allora, l'utile a 2,8 miliardi di euro, il dividendo a 8 centesimi di euro, quindi quanta parte dell'utile viene distribuito agli azionisti è di 8 centesimi per ogni azione ordinaria, un 2010 in cui si attende un risultato netto in crescita, e il dividendo, detto Corrado Passera, numero uno della banca, è un segnale di fiducia per il futuro. Per quello che riguarda Agricola, stanno trattando sul prezzo per la cessione dei 150-200 sportelli che devono cedere, e sempre Corrado Passera è intervenuto poi per quello che riguarda le conferenze con gli analisti, come sempre, come Alessandro Profumo due giorni fa, in inglese. Sentiamo il passaggio in cui ricorda che anno è stato il 2009. 2009 has been the bottom of the crisis. We are very satisfied with these results. Also because we are the only bank in Europe. Qui dice Passera che il 2009 è stato l'anno più basso della crisi. Sono soddisfatti dei risultati raggiunti, anche perché Intesa è l'unica banca in Europa ad aver affrontato la crisi senza creare un aumento di capitale, aumentare il numero delle azioni. Non abbiamo usato leverage per i risultati, siamo un caso unico in Europa, non abbiamo fatto ricorso all'aumento di capitale. E ancora, stiamo passati attraverso una serie di momenti difficili, ma gli obiettivi che avevamo previsto di raggiungere li abbiamo raggiunti. Di nuovo, non abbiamo fatto ricorso alla leva per i risultati, ma ci siamo focalizzati sui fondamentali, specialmente sui costi. Tutti gli obiettivi quindi superati. Liven Zancanero, una domanda facile, perché il mercato non premia Intesa, anzi la fa calare del 2,41%? Sì, allora, in realtà non è arrivata una risposta, diciamo, unilaterale dal mercato, nel senso che allora le azioni hanno virato in negativo poco dopo la pubblicazione dei conti, mentre immediatamente la risposta del mercato era stata positiva. Allora, secondo gli operatori, quindi chi si occupa di mercato a livello proprio di trading, si è trattato per lo più di movimenti tecnici, visto che i volumi sono stati molto elevati, infatti è stato scambiato l'1,5% del capitale. Secondo gli operatori bisogna considerare il fatto che oggi è il cosiddetto giorno delle tre streghe, cioè in cui scadono tutti the three i contratti. Witches, eccoci qua. Infatti è il giorno in cui scadono tutti i contratti, cioè praticamente gli investitori oggi devono regolare le proprie posizioni. Quindi gli operatori dicono che praticamente dopo gli acquisti realizzati in mattinata, eccetera, eccetera, probabilmente dopo la comunicazione dei conti, ci sono state delle prese di beneficio. Infatti sostanzialmente gli analisti ritengono questi conti in linea migliori delle attese. Ok, quindi non c'è vicenda Fidero, è sostanzialmente un movimento tecnico, le tre streghe, ne parlammo in altre puntate senza nessun riferimento. Allora, grazie a Livia Zancanera, a tutti i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore, buon fine settimana a voi. Adesso noi andiamo con le informazioni sul traffico, quanto mai importanti il venerdì, e poi cerchiamo di capire da un futurologo che non sempre ci ha azzeccato, infatti qualche domandina su questo gli abbiamo fatta, che cos'è questa empatia e perché la Casa Bianca è sotto scacco di Wall Street, Obama praticamente prigioniero, sequestrato dai grandi banchieri di New York. 349-238-6666 per i vostri sms. 18-17 minuti, ultima parte di Focus Economia. E dopo aver parlato degli incentivi ai vari settori, lo so che alcuni sorridono sugli incentivi per i motori delle barche, ma attenzione, abbiamo dato anche le proporzioni degli incentivi. La grossa fetta va agli elettrodomestici da consumo, non va alle barche, ci mancherebbe, ma insomma, e poi va alla casa, alle due ruote. Ripeto, su 300 milioni, 85 milioni per l'abitazione a efficienza energetica, 58 milioni per l'acquisto di mobili da cucina, 50 milioni per elettrodomestici, 35 milioni per le gru dell'edilizia, 18 milioni per i trattori, 12 milioni per gli ecoscooter, 10 milioni per i motori della nautica, poi 13 milioni per i rimorchi e 10 milioni per i motori ad alta efficienza energetica. Dicevo, adesso ragioniamo, se possibile ampliamo lo sguardo, perché è in Italia in questi giorni un economista, politologo molto conosciuto, Jeremy Rifkin, ha scritto decine di libri tradotti nel nostro paese, dalla fine del lavoro nel 95 al secolo biotech del 98, economia all'idrogeno nel 2002, il sogno europeo nel 2004, è in Italia per presentare un nuovo libro che si chiama La civiltà dell'empatia, la corsa verso la conoscenza globale. Ne abbiamo parlato con lui soprattutto dell'atteggiamento di Wall Street, però in questo periodo, e poi anche di cos'è questa civiltà dell'empatia che arriverà come conseguenza della crisi economica. E gli abbiamo chiesto in primo luogo perché è molto critico verso il presidente Obama e lo ritiene ostaggio degli dei dell'Olimpo di Wall Street. First, they don't understand the nature of the global crisis. They don't get what the crisis is. Innanzitutto non hanno capito la natura della crisi globale, non hanno capito come si è sviluppata. La vera crisi sul fronte industriale, data a luglio 2008, quando il petrolio è schizzato a $147 al barile, i prezzi della benzina e degli alimentari sono saliti alle stelle e il potere di acquisto è sprofondato in tutto il mondo. In quel momento il motore dell'economia si è spento ed è stata la fine di una certa età industriale. È stato il terremoto. Il collasso finanziario due mesi dopo ha rappresentato la scossa di assestamento. Ciò che non abbiamo ancora accettato è che siamo arrivati al finale di un certo tipo di era industriale. Anche se in questo momento l'economia globale è in crescita e il petrolio è a $80 al barile. Ma il prezzo del greggio sta aumentando perché c'è troppa domanda a causa della crescita di Cina e India. La richiesta di energia è troppa ed è per questo che il prezzo cresce. Assistiamo dunque alla fine di un'era industriale basata sul petrolio e materie prime che si stanno esaurendo ed è improbabile che vengano ricostituite. I motori dell'economia si spegneranno inevitabilmente se il petrolio tornerà a $140. E questa è la vera crisi. Quello che va fatto ora è spostarci velocemente verso una terza rivoluzione industriale basata su un nuovo sistema di energie rinnovabili, una nuova rete di comunicazione e un nuovo tipo di infrastrutture. Se ogni edificio in Europa diventasse come una piccola centrale elettrica e ci fosse un sistema capace di dirottare questa energia in un unico luogo, allora si creerebbero milioni di posti di lavoro. Immaginate cosa potrebbe accadere se ogni edificio venisse ricostruito adottando questa tecnologia. Dobbiamo ripensare all'intera rete energetica, in modo che per le linee elettriche si avrebbe una rete integrata come per Internet. Dovremmo ripensare anche la rete dei trasporti e della logistica. Questo è il modello della terza rivoluzione industriale che potrebbe funzionare in Europa. Obama, al contrario, non accetta questo modello. Sfortunatamente, lui pensa ancora come se fossimo nel XX secolo. Sì, mi scusi, professor Rifkin, ma allora lei vuol dire che Wall Street è più forte di Main Street, ossia Wall Street è più forte della Casa Bianca, di Washington, dell'amministrazione Obama? Wall Street owns the White House, Wall Street owns Congress. In realtà Wall Street ha in mano la Casa Bianca, ha in mano il Congresso, e questo perché finanzia le elezioni e quindi anche chi poi legifera. È da molto tempo che non siamo in democrazia, perché la montagna di milioni di dollari elargiti dalle lobby delle grandi società mantiene i politici eletti a Washington, al Congresso, alla Casa Bianca. È quindi chiaro che queste lobby pilotino il processo legislativo. In Europa c'è il sistema del finanziamento pubblico, quindi le grandi società non possono avere il controllo. Non c'è democrazia a Washington. Ho vissuto là per 40 anni e insegnando ai leader delle grandi compagnie so come funziona il gioco. Fino a che non si porrà fine al finanziamento delle campagne elettorali da parte delle lobby, In America non avremo democrazia. Sì, non è una bellissima analisi la sua. Comunque non è nemmeno che in Europa il sistema di finanziamento pubblico ai partiti non permette poi le lobby. Comunque, lei anni fa, professor Rifkin, ha scritto nel 95, per la precisione, un libro in cui citava la fine del lavoro, cioè l'information technology, la meccanizzazione, informatizzazione della società avrebbe portato noi tutti a lavorare di meno, a avere molto più tempo libero e quindi la fine del lavoro. Ora io le chiedo, non è il caso di fare 14 anni, 15 anni dopo un po' di autocritica, visto che qui in Europa, ma anche in America, la fine del lavoro c'è stata per alcuni, ma non come prevedeva lei, c'è stata nel senso che hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione. Un'autocritica le riscriverebbe quelle cose? The end of work analysis that I made has just been made by the head of the Federal Reserve System in California. L'analisi che ho illustrato nel libro La fine del lavoro corrispondeva a quella condotta da importanti istituzioni in California. Era un'analisi corretta. Quello che è successo è che il sempre più crescente uso della tecnologia ha via via eliminato molte attività all'interno delle imprese. Questo perché la tecnologia risulta più a basso costo. In tutto il mondo il lavoro all'interno delle imprese sta calando significativamente. Anche la Cina ha eliminato il 15% della forza lavoro a favore di sistemi di automazione. Succede in Europa, in America, ovunque. Anche in questo momento di ripresa si stanno rimpiazzando i lavoratori con la tecnologia. Risulta tutto più economico, ma nel breve termine, entro i prossimi 30 anni, abbiamo un'opportunità per favorire il lavoro umano. A livello infrastrutturale si potrebbero ristrutturare gli edifici, rifare le reti elettriche e dei trasporti, ma nel lungo termine, senza dubbio, andiamo verso una riduzione della forza lavoro e un aumento della tecnologia. Veniamo adesso alla tesi del... Sì, ho capito, insomma, molte previsioni sono state sbagliate in quegli anni, mi sembra che adesso insomma, la fine del lavoro acquisti un altro sapore. Comunque, andiamo avanti, nessuno è perfetto. Torniamo alla tesi del libro La civiltà dell'empatia, quello che lei sta pubblicando per Mondadori ed è appunto... sta presentando in Italia. Lei parte dal presupposto che insomma, si sta affrontando una terza grande mutazione nella storia e quindi di una terza grande rivoluzione economica e industriale e il nostro modo di pensare precedente non è più adeguato. L'empatia vuol dire la capacità di immedesimarsi nello stato d'animo, in quello che pensa un altro, immedesimarsi nell'altro, nella situazione di un'altra persona. E lei dice le nuove generazioni che sono tutte già connesse, che navigano su internet, sviluppano già un'empatia per definizione, tutto è in rete, tutto è uno scambio peer-to-peer, alla pari molto spesso. Le faccio una domanda volutamente però provocatoria. Non è che noi bianchi occidentali stiamo adesso iniziando a scoprire l'empatia perché Cina e India stanno emergendo come le nuove potenze economiche, per ora poi vediamo se anche militari a livello mondiale. Cioè prima magari non avevamo nemmeno così tanto bisogno di essere empatici, tanto imponevamo i modelli e li avevamo in mano e gli altri dovevano seguirci. Well, that's interesting, but no. What I show in the book is empathy has been developing steadily and picking up speed. È un punto interessante, ma ciò che emerge dal libro è che l'empatia ha avuto un processo di sviluppo veloce con il passare dei secoli, specialmente negli ultimi 50 anni. La questione che pongo nel libro è: siamo per natura empatici? Questo aspetto ha subito un'evoluzione nel corso degli anni. Sappiamo che è così perché la coscienza umana non è la stessa del Medioevo o di 300 anni fa. Ciò che abbiamo scoperto guardando alla storia è che la coscienza degli uomini è cambiata quando è emerso un nuovo regime energetico. Ciò ha permesso la creazione di una società più complessa e ha spinto le persone ad una maggiore unità. In seguito, la rivoluzione nella comunicazione ha organizzato questo regime energetico più complesso. Le due rivoluzioni, energetica e della comunicazione, si sono unite e hanno creato una società più complessa. Hanno cambiato la coscienza e l'empatia. Ora che Internet e il sistema di energia rinnovabile stanno creando la terza rivoluzione industriale, che si configura come un sistema nervoso con diramazioni in tutto il pianeta, mi chiedo perché non immaginare di estendere l'empatia a tutta la natura umana, vista come una famiglia. E perché non spostare i confini nazionali religiosi a quelli della biosfera e considerare la biosfera come la nostra comunità. Questa è l'intervista che abbiamo realizzato questa mattina con Jeremy Rifkin. Comunque insomma il libro è in edicola, casa editrice Mondadori, appunto La cultura sulla cultura della civiltà dell'empatia. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia per questa settimana. Vi do un aggiornamento dall'America: meno 0,5% il Dow Jones, meno 0,90% il Nasdaq. Non mi resta, come ogni venerdì, che ringraziare Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione, Pietro Accorto per l'assistenza in regia. Da Sebastiano Barisoni a voi tutti l'auguro di un buon fine settimana, a tutti papà, buona festa del papà. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.